che vengono dati per sciogliere i calcoli, per prevenirne la formazione. Dottor Battaglia, ci scriva allora la ricetta. Allora, la ricetta è quella di mangiare poca carne. Sì. I paesi occidentali sono ricchi di diete carne. La carne diminuisce la formazione di citrati nelle urine e quindi ci porta alla formazione di calcoli, perché manca il fattore di protezione che sono i citrati. E soprattutto questa dieta carnea fa sì che si sciolgano il calcio dalle nostre ossa e quindi le urine sono ricche di calcio. Bere limone significa togliere l'acidità nel sangue per la nostra dieta ricca di carne e soprattutto reintegrare quel protettore naturale che sono i citrati, che fanno sì che non precipitano e quindi non si formano i calcoli e i calcoli si sciolgono. Una spremuta di un limone diluito, mezzo limone? Una spremuta di un limone diluito al giorno toglie il calcolo di torno. Toglie il calcolo di torno, ma non solo, sembra che si abbiano anche potere sulle cellule neoplastiche, perché il limonoide, che è uno dei composti del limone, blocca l'apoptosi, che sono l'autodistruzione delle nostre cellule. Dottor Battaglia, io la ringrazio per essere stato con noi, i suoi consigli sicuramente saranno preziosi a chi teme la calcolosi renale o chi ha già avuto una colica renale, sono davvero dolorosi. Io l'aspetto presto, le auguro una buona giornata, al profumo buona di giornata. Limone. Buona giornata a voi e grazie per l'intervento. Grazie, buona giornata. Buona giornata. C'è chi dice meglio avere rimorsi che rimpianti. Io non so come la pensiate voi e potremmo magari discuterne in una puntata dedicata, ma è un dato è certo. Tutti noi conosciamo bene questi stati d'animo, se così vogliamo definirli, per esperienza diretta o indiretta. E su uno di questi in particolare si è concentrata un'interessante ricerca condotta dall'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Parma. Parliamo di rimpianto e in linea con noi il professor Stefano Cappa, ordinario di neuropsicologia all'Università Vita Salute di San Raffaele. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Professore, approfitto subito di lei. Prima di arrivare al cuore della ricerca, vogliamo dare una definizione del rimpianto? Possiamo dire che è uno stato d'animo? Sì, direi è un'emozione complicata, molto più complicata delle emozioni di base come la paura, la gioia, eccetera, però sicuramente si può definire come un'emozione complessa. E ha diverse sfumature il rimpianto. Il rimpianto, quando uno dice rimpiango di, è sempre un po' la sensazione di un'occasione mancata. Sì, tecnicamente infatti si parla proprio di un confronto, no? Il rimpianto è un'emozione generata dal confronto tra una certa situazione e un'altra situazione che si poteva verificare. E noi ci sentiamo subito responsabili, è come aver fallito? Ma forse è ancora più complicato così, spesso sì, cioè questa è una delle componenti, ma tenga presente che insomma è un classico della letteratura il rimpianto, se certo. Pensa quanti libri, quante opere d'arte si sono basati proprio sul rimpianto. Anche d'arte. Una punta di nostalgia. Assolutamente. Magnifica. Assolutamente. Insomma, è stato espresso piace. In maniera fantastica. Mi piace questa emozione complessa e mi piacerebbe, professor Cappa, invitarla proprio a parlarne insieme ai nostri ascoltatori, anche perché voi avete fatto questa ricerca molto interessante. Ce la racconta? Certo, guardi, la ricerca ha una base teorica molto importante, che è quella dei cosiddetti meccanismi a specchio, no? Di cui si è parlato moltissimo, ci sono state anche tutta una serie di discussioni molto vivaci. Comunque, il meccanismo a specchio in questo caso riguarda qualcosa che è molto facile da capire, perché è presente praticamente nella nostra, in tutte le lingue, nel concetto di mettersi nei panni di qualcuno, no? Gli inglesi dicono mettersi nelle scarpe di qualcuno. E questa può essere una spiegazione assolutamente scientifica di quello che è un sentimento che abbiamo molto comunemente. E per fortuna, perché se l'uomo è un animale sociale, se non avesse, no, questa... Assolutamente, è un punto centrale, io penso, di quello che è l'esistenza umana. Comunque, quello che noi abbiamo studiato in questa situazione è quello che succede, non solo soggettivamente, ma a livello delle misure che noi facciamo, dell'attività del sistema nervoso centrale, quando io vedo qualcun altro che si mette in una situazione di rimpianto. Questo è stato fatto con una situazione sperimentale molto semplice, basata su una situazione di scelta di lotteria. Adesso non è necessario entrare nei particolari dell'esperimento, però il punto di base è che il soggetto la cui attività cerebrale veniva misurata in risonanza vedeva qualcuno che sperimentava un rimpianto perché la sua scelta aveva dato un esito diverso da quello che avrebbe potuto fare. E in sostanza noi abbiamo potuto confrontare la sua attività cerebrale con quella descritta in soggetti che sperimentavano loro stessi il rimpianto. Cosa che era già stata studiata da altri gruppi, e il risultato interessante è che le aree cerebrali, i sistemi cerebrali che si risvegliano nel cervello dell'osservatore sono praticamente sovrapponibili a quelle che si osservano quando si sperimenta un rimpianto in prima persona. Professore, dove porterà questa ricerca? Perché si fa sempre più luce sui meccanismi che regolano un po' le attività dell'uomo e i suoi comportamenti. Ma guardi, io credo che sia importante sottolineare che questo è solo uno dei tanti studi che hanno dimostrato l'importanza di questo meccanismo. Sono conoscenze che sono chiaramente molto interessanti sul piano teorico. Io penso che alla lunga, magari non adesso, ma nel corso dei prossimi anni, capire di più come funziona il cervello normale in situazioni così, diciamo, centrali dell'esperienza umana potrà avere delle implicazioni per comprendere tante malattie, tante patologie. Penso soprattutto a patologie psichiatriche e neurologiche che sono caratterizzate proprio da un'alterazione di questi meccanismi di base. Se posso fare un esempio, noi abbiamo imparato molto sull'organizzazione per esempio del sistema motorio, no? E le conoscenze che noi abbiamo su come organizziamo i movimenti sono alla base di quello che possiamo fare per i pazienti che hanno dei disturbi del movimento. La speranza è che capire di più di questi meccanismi complessi possa essere di aiuto per trattare delle situazioni in cui sono questi meccanismi che funzionano in modo normale. Professore, io l'aspetto qui a Radio 24 in studio per una puntata proprio tutta dedicata a questo tema. Intanto le auguro buon lavoro, buona ricerca e anche soprattutto buona giornata. Molte grazie anche a lei. Grazie. Arrivederci. E chiudiamo dedicandoci all'altra metà del cielo, agli uomini. Parliamo di un appuntamento fisso che hanno tutte le mattine, quello davanti allo specchio, la rasatura. E lo facciamo col professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, bentornato. Buongiorno a lei, ascoltatori. Io non so se i papà all'ascolto hanno la pelle liscia oppure magari preferiscono farsi crescere la barba, ai bambini magari piace di più, e soprattutto non so se alle nostre ascoltatrici piaccia più l'uomo barbuto o l'uomo rasato. Insomma, non sappiamo dove possa pendere l'ago della bilancia, ma noi, professor Monfrecola, con lei oggi vogliamo parlare dei segreti di una rasatura perfetta, quindi una rasatura che lasci la pelle liscia, senza brufolini, taglietti, arrossamenti. Ce la facciamo, professore? Beh, possiamo provarci, certo. Allora, io dicevo al mattino, di solito ve la fate al mattino, no, la barba? Sì, sì, è una pratica in genere mattutina, in genere poi al mattino ha la pelle più, come dire, rilassata, quindi si offre meglio a queste pratiche. Meglio subito dopo la doccia, perché la pelle è più preparata? Sì, verissimo, dopo la doccia perché la pelle è più idratata, e questo naturalmente si riverbera positivamente anche sul pelo. Il pelo deve essere idratato, infatti gli ammorbidenti che si adoperano, i cosiddetti schiume da barba, hanno prima di tutto questa funzione: ammorbidire il pelo arricchendolo d'acqua in maniera tale che diventi più docile poi alla rasatura. Professore, rasoio elettrico lama è una scelta personale o invece dovrebbe essere guidata anche dal tipo di pelle?